Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. In Israele il nuovo esecutivo coprirà tutto l'arco costituzionale, dall'ultradestra di Lieberman ai laburisti, tenendo fuori il partito di maggioranza relativa a Kadima. Tre quarti delle esecuzioni capitali nel 2008 sono avvenute in Cina, denuncia Amnesty. Il Sudafrica nega il visto al Dalai Lama fino al 2010. Il piano Geithner per gli asset tossici piace ai mercati, ma le borse europee hanno già virato in negativo. Oltre la metà degli italiani è favorevole al piano casa, dice Berlusconi, che invita a guardare al futuro con fiducia. Non si ripetano gli errori del passato, dice Napolitano nell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Una buona giornata da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. In apertura andiamo in Israele. Perché? Perché nella notte è stato raggiunto un accordo fra la destra di Netanyahu, premier designato, e i laburisti. Un accordo che porterà ad un governo particolarmente composito. A prima vista, la coalizione di governo che sta prendendo forma in Israele sembra uno scherzo. È come se in Italia governassero insieme Forza Italia, AN, la Lega di Bossi e Rifondazione Comunista. Eppure, il premier designato Benjamin Netanyahu sta provando a dar forma ad una coalizione di governo nella quale coesisteranno, non si sa bene con quali equilibrismi, il partito ultraortodosso Shas, quello ultranazionalista Israel Beitenu e i laburisti di Barak. Il primo effetto dell'incredibile accordo è quello di un enorme smacco a Kadima, il partito di centro guidato da Tzipi Livni e che ha la maggioranza relativa. Kadima si trova messo spalle al muro dopo il rifiuto di governare con Netanyahu, che pure aveva teso la mano alla Livni. Se lei, coerentemente con i principi del partito centrista, aveva rifiutato compromessi con il Likud, il laburista Ehud Barak, ministro della difesa con il governo Olmert, ha accettato, con il rischio di una spaccatura all'interno del suo partito, quando questo pomeriggio il Labour dovrà approvare. L'accordo, in sintesi, prevede l'impegno dell'esecutivo a perseguire un'intesa generale di pace e cooperazione nel Medio Oriente e a sentirsi vincolato dagli accordi politici e internazionali sottoscritti dai governi passati. Barak sarà partner paritetico nella conduzione del processo di pace. Con questa soluzione Netanyahu riuscirebbe ad ottenere 66 seggi sui 120 della Knesset, ma bisognerà vedere a quale prezzo forze politiche così variegate potranno governare insieme. I laburisti di Barak sono favorevoli al processo di pace con i palestinesi e sostengono la soluzione due popoli e due stati, soluzione che invece il leader della destra nazionalista, Avigdor Lieberman, ritiene superata. Contrario alla formazione di uno stato palestinese sovrano è anche Netanyahu, che ha capito però che dovrà smussare certi angoli per poter governare e per avere il sostegno internazionale. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore ed esperto di Medio Oriente. Come vedi la formazione di questo governo? Abbiamo visto molto composito. Ci sono i laburisti e l'estrema destra. Insomma, potranno convivere civilmente insieme? Questo è ancora un po' presto per determinarlo. Bisogna comunque lasciare, come dire, un po' di spazio alle possibilità. La cosa che però così sembra più probabile è l'inizio della fine del Partito Laburista. Sembra che questo sia una specie di atto finale politico del Partito Laburista, una spaccatura fra i laburisti di una certa età, della vecchia generazione, che temono poi all'opposizione di sparire dalla scena politica, tipo per esempio Barak. Invece la giovane generazione dei 50 anni in giù, che invece accetta di andare all'opposizione per una rigenerazione politica, per rinascere per il partito laburista che è, non per un partito laburista totalmente privo di ideali antichi del laburismo, sia dal punto di vista politico che economico. Ugo, alla fine solo di fatto, solo Kadima è rimasto fuori, peraltro il partito di maggioranza relativa. Secondo te è stato un accordo per far fuori alla Livni, la Livni, o è la Livni che si è fatta fuori da sola, diciamo così? Anche questo lo capiremo nelle prossime settimane. Certo che comunque sì, è vero, in questo accordo c'è anche qualcosa di molto vecchio, non solo di molto vecchio nel tentativo di mettere insieme delle proposte radicalmente diverse, perché nell'accordo che è stato fatto con i laburisti, Bibi Netanyahu fa delle grandi offerte, delle grandi aperture verso la pace, ma una settimana fa nell'accordo fatto con Lieberman l'accordo era completamente diverso, quindi qualcuno sta barando e si capirà chi è. Però in questa cosa sì, c'è qualcosa di molto vecchio, cioè due vecchi arnesi della politica come Bibi Netanyahu, della politica israeliana come Bibi Netanyahu e Ehud Barak, di due vecchi partiti un po' spompati, si mettono insieme per cercare di far fuori, di eliminare questo elemento un po' pericoloso e anche questo elemento di disturbo creato tra l'altro dal vecchio Ariel Sharon, con la modernità di Tzipi Livni, non solo perché è una donna, ma anche perché ha avuto il coraggio di fare delle politiche senza guardare al potere, come invece fanno tradizionalmente gli uomini politici israeliani. La loro ambizione c'è molto in questo accordo, nel tentativo di mettersi, appunto, di riuscire a schiacciare Tzipi Livni, di dimostrare che il partito laborista e il partito Likud possono andare avanti per i prossimi 45 anni a gestire Israele e anche a rinviare la fine del processo di pace. E grazie Ugo Tramballi per questi commenti. Ci parlavi tu di modernità, noi di modernità parliamo, però in di Italia. Di tutt'altro tipo, naturalmente. Sì, modernità in Italia, perché oggi si è inaugurata la tratta vera, quella proprio della vera alta velocità fra Milano e Roma. Che cosa intendiamo? Intendiamo quella tratta ferroviaria che porterà appunto dal capoluogo lombardo alla capitale in sole 3 ore, senza proprio passare fisicamente né da Bologna né da Firenze. Paolo Piacenza sta seguendo questo viaggio inaugurale al quale partecipa anche Silvio Berlusconi per noi. Paolo, a te. Buongiorno, è partito regolarmente da Milano alle 12, quindi potrà arrivare in orario in sole 3 ore a Roma il treno ad alta velocità su cui sta viaggiando il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il viaggio inaugurale del Presidente del Consiglio per inaugurare il record sulla tratta Milano-Roma. Il Presidente del Consiglio alla partenza ha parlato con i giornalisti, ha detto che la crisi è un virus che viene dagli Stati Uniti e invita gli italiani a reagire, a impegnarsi, anche a lavorare di più se serve. Ha annunciato che venerdì il governo varerà un decreto sul piano casa e che secondo un sondaggio oltre il 50% degli italiani è favorevole. Da quando il treno è partito, il presidente è entrato nella cabina di pilotaggio, dove ha seguito l'accelerazione fino a 300 km all'ora, ma sentiamo la voce del Presidente del Consiglio dalla cabina di pilotaggio. È una settimana che da sola si è riempita di avvenimenti che possono essere simbolici. Quello di stamattina, che addirittura è un avvenimento epocale per le ferrovie e per l'Italia, abbiamo raggiunto in questo momento i 300 km all'ora e il treno ha una grandissima stabilità. Il Premier è apparso di ottimo umore, ha anche scherzato con una giornalista del TG3 sul calo del suo reddito, facendosi promettere un piatto di minestra in caso di indigenza. E dal treno ad alta velocità è tutto. Grazie allora Paolo Piacenza, magari ci sentiremo più tardi se riusciamo a collegarci nuovamente con te per sapere se sei arrivato nel frattempo a Roma. Naturalmente. Noi restiamo sulla politica perché è iniziata questa mattina in Senato la votazione sul disegno di legge sul testamento biologico. La maggioranza dovrà affrontare, abbiamo preso poco fa dalle agenzie, 53 voti segreti, anche se il voto finale sarà palese. A Palazzo Madama c'è Paola Cavadi. Paola. Sì, buongiorno. Settimana decisiva al Senato per il disegno di legge sul testamento biologico. Oggi in aula è iniziato il voto articolo per articolo del provvedimento, che dovrà essere licenziato entro giovedì prossimo. Degli oltre 3.000 emendamenti presentati ne sono stati accolti circa 1.500. Su 53 di questi emendamenti la Presidenza del Senato ha deciso che si procederà con voto segreto, accogliendo in questo modo le richieste dell'opposizione, che spera di raccogliere il voto di qualche dissidente interno al centro-destra. Sulla possibilità di ricorrere invece al voto segreto anche nella votazione finale, la Presidenza valuterà in seguito. L'articolo più controverso del DDL sul fine vita è l'articolo 3, lo ricordiamo, quello che riguarda la possibilità di dare indicazioni nel testamento biologico sui trattamenti di nutrizione e idratazione artificiali. Favorevole a questa possibilità, il PD ha presentato un emendamento su cui è previsto il voto segreto e che esprime l'orientamento prevalente del partito. Dunque il voto finale è previsto per giovedì 26 marzo, il confronto durerà quindi tutta la settimana, non si esclude che la seduta finale possa andare avanti ad oltranza. Superato l'esame al Senato, il testo del DDL passerà poi alla Camera. Da Palazzo Madama è tutto. Buongiorno. Grazie allora alla nostra Paola Cavadi, noi ci spostiamo a Milano per l'inchiesta Telecom. Simone. Sì, oggi in tribunale udienza per decidere se distruggere o meno i dossier acquisiti da Tavaroli e altri indagati. Sono passati 2 anni, si sono alternati 3 diversi presidenti, ma dalla consulta ancora nessuna decisione sulla distruzione dei dossier illegali Telecom. Si è sviluppata così nell'incertezza per la mancata risposta della Corte Costituzionale l'udienza convocata dal GIP Giuseppe Gennari, che il 18 aprile comunicherà la sua decisione. Vanno conservati o mandati al macero i fascicoli acquisiti illecitamente su 4.500 persone? Questo il quesito posto dopo il varo frettoloso di una legge all'indomani degli arresti Telecom. Oggi per la prima volta nell'Aula Magna si sono ritrovati di fronte spiati e presunti spioni. Da una parte, tra gli altri, il vice direttore del Corriere Mucchetti, dall'altra l'ex titolare dell'agenzia investigativa Emanuele Cipriani o l'ex capo della security brasiliana Telecom Iannone. I difensori chiedono di andare avanti con l'udienza preliminare già fissata per il 31 marzo, mentre la procura vuole aspettare la consulta. Il neopresidente Amiranti aveva assicurato che presto avrebbero raggiunto una decisione sulla costituzionalità della legge. Di fatto non è stata ancora neanche messa in calendario. A Milano, in una riunione col capo del Tribunale Pomodoro, le toghe si sono interrogate sulla possibilità di poter fare qualcosa, considerando che i termini della prescrizione procedono, ma in realtà non possono che aspettare. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. Ora parliamo di teatro. Ma se mia moglie facesse una roba del genere, magari io le farei ingoiare proprio la scatolina di Lamierino con tutta la chiavetta per aprire. E non ti venga in mente di sgarrare a sto modo, perché se solo vengo a sapere che hai fatto la raffa al supermercato o che ti sei permessa di pagare sotto costo anche una sola scatoletta di acciughe, guarda, io... Oh, ho capito, me la fai ingoiare con la chiavetta di traverso. Sì. No, peggio, faccio fagotto e non mi vedi più, vado via di casa. E dove vai? Ah, beh, anzi, prima ti ammazzo e poi chiedo il divorzio. O al contrario, adesso ci penso un attimo. Parliamo di teatro perché in tempo di crisi economica anche il teatro si adatta e propone spettacoli a tema. 2 anni dal debutto sbarca questa sera al Piccolo Teatro di Milano Sottopaga Non Si Paga, nuova versione del lavoro del 74 di Dario Fo, Non Si Paga, Non Si Paga. Protagonisti sono Antonio Catania, uno degli attori preferiti da Salvatore e di tante fiction televisive, e Marina Massironi, ruoli che furono invece in passato interpretati da Dario Fo e Franca Rame. Sono passati tanti anni, la società è diventata multietnica, ma i problemi sono sempre gli stessi: far quadrare il bilancio familiare. Adriana Fracchia ha raggiunto Dario Fo prima del debutto milanese. Devo dire che è diventato ancora più presente e soprattutto legato all'attualità in un modo straordinario. Succede spesso che in teatro si indovinino, meglio si prevedano situazioni tragiche, comiche, grottesche che sono paradossali quando vengono scritte o messe in scena. Fatto sta che a noi è successo proprio così. La bellezza di 4 volte abbiamo dovuto riordinare e riadattare il testo perché stesse al ritmo con la storia della cronaca. È successo già 40 anni fa circa che dovemmo adattare in conseguenza del fatto che la cronaca ci superò, i fatti ci travolsero. Poi quando abbiamo deciso in seguito a questa tensione che c'era 2 anni fa di mettere in scena lo stesso testo, l'abbiamo riscritto, ma non è bastato perché dopo qualche mese già le situazioni si erano raddoppiate, fatti che erano imprevedibili sono esplosi fino a questa mondiale, questa crisi mondiale che vede l'America responsabile di una situazione che sta coinvolgendo tutto il mondo e noi ne stiamo pagando anche le conseguenze. Sono le 13:18, questo è il GR Extra Large. Nella prima parte abbiamo parlato del futuro governo israeliano che potrebbe comprendere tanto i laburisti quanto l'ultradestra. Abbiamo sentito il racconto del primo viaggio in 3 ore da Milano a Roma in treno. Sul convoglio c'era il presidente del Consiglio Berlusconi che dice contro la crisi gli italiani lavorino di più. Vi abbiamo raccontato del primo giorno di votazioni sul testamento biologico al Senato, ma vi abbiamo parlato anche di teatro. A Milano arriva lo spettacolo Sottopaga, Non Si Paga, firmato da Dario Fo. E ora è invece andiamo in borsa, fiammata in apertura, poi una virata al ribasso. Deborah Rosciani, come stanno andando le cose? Allora, adesso le borse sono ancora piuttosto incerte, però stanno tentando di nuovo di riconquistare il terreno positivo. Adesso sono tutte sulla parità, Parigi e Francoforte, è ancora negativa Londra per un punto percentuale, Milano più 0,16% sull'S&P MIB. Peraltro, al di là dell'effetto del piano Geithner presentato ieri, che ha fatto letteralmente volare la borsa europea e poi anche quella americana, oggi a Piazza Affari ci sono dei temi anche che riguardano fatti di casa nostra. Il Banco Popolare più 11%, il gruppo presenta i suoi conti in queste ore, lo farà anche Mediolanum più 9%, UbiBanca più 3%, ma non tutte le banche vanno bene, perché dopo un'apertura piuttosto spumeggiante Intesa San Paolo ha rapidamente cambiato direzione e adesso perde 2,5 punti. E grazie Deborah Rosciani per questi aggiornamenti. Deborah Rosciani ci parlava del piano Geithner, ma in cosa consiste in sostanza questo piano? Buongiorno a Marco Nado, ex commissario Consob, docente di economia degli intermediari finanziari alla Bocconi ed editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno a voi. Allora, professore, ci dà una mano innanzitutto a capire come funziona davvero il sistema Geithner per rimuovere gli asset tossici dal sistema finanziario americano? L'idea è quella di costituire uno o più fondi con capitale che viene in parti uguali dal pubblico, cioè dal tesoro americano, e dal privato. Sopra questo viene messo una quantità di credito garantito dalla Fed e dall'Istituto Federale di Assicurazione dei Depositi, che si chiama FDIC. Quindi in sostanza viene costituito un grande fondo, in realtà un hedge fund, perché ha un indebitamento molto elevato, grosso modo si calcola oltre l'80% del totale dell'attivo. Questo fondo dovrebbe acquistare le attività tossiche che con termine molto soave nel piano Geithner sono definite legacy, cioè eredità del passato, ad un prezzo sufficiente, sufficientemente basso a avere una possibilità di guadagnare qualcosa in futuro, e sufficientemente alto da non creare perdite per le banche. L'idea è che tutto questo dovrebbe consentire al sistema finanziario di ripartire. Ecco, mi scusi professore, ma abbiamo visto, questo fondo è costituito per metà dal capitale pubblico, per metà dal capitale privato. Ma che interesse ha un privato ad acquistare alla fine questi titoli tossici? Allora, l'interesse del privato qual è? L'interesse del privato, appunto, che se il prezzo di acquisto dei titoli è sufficientemente basso, c'è soltanto una possibilità di guadagno. In qualche modo è un'opzione, quella che è un'opzione call, cioè una situazione in cui il massimo della perdita possibile è definito e c'è una possibilità di guadagno molto elevata, è aumentato dall'effetto della leva finanziaria, cioè dell'indebitamento, se questi titoli dovessero ritornare a valori molto vicini a quelli cui sono stati emessi. Insomma, devo dire che c'è scritto esplicitamente nel piano di Geithner che l'ipotesi di fondo è che oggi questi titoli scontino non solo un problema collegato al deterioramento della situazione economica generale, ma anche un problema di liquidità. In altre parole, i titoli quando sono stati emessi valevano 100 e si sperava che fossero rimborsati a 100. La situazione è peggiorata e valgono qualche cosa di meno. Il prezzo di mercato di oggi però sembrerebbe esprimere una valutazione pessimistica ancora più forte di quella giustificata dai fondamentali. E il piano Geithner avrebbe proprio l'obiettivo di far ripartire la domanda dei titoli e quindi di riportare i valori su prezzi più elevati degli attuali. Professore, in sostanza, con questo piano e con la creazione di questo fondo, si concede credito, diciamo così, per acquistare questi titoli, per l'acquisto di questi titoli. Non c'è il rischio di innescare meccanismi ancora peggiori? Ma il rischio vero, più che innescare meccanismi ancora peggiori, è che l'ipotesi che ho detto, è che è un'ipotesi in qualche modo ottimistica, non sia reale, e quindi il piano non abbia successo, così come non ha avuto successo 6 mesi fa il piano Paulson. Quello che è a rischio in questo momento è la credibilità dell'amministrazione Obama. Insomma, Obama qui su questo si sta giocando una parte notevole, insomma, del suo prestigio politico. Se non dovesse funzionare sarebbe un gravissimo problema. E aggiungo, Obama credo che abbia scelto tra due alternative possibili. Una è questa, naturalmente, e l'altra era la nazionalizzazione conclamata del sistema bancario americano. Grazie a Marco Onado, ex commissario Consob, docente di economia degli intermediari finanziari alla Bocconi, per averci aiutato appunto a capire qualcosa di più di questo piano Geithner. Buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Ora parliamo della conservazione della memoria. Tra poco arriveremo a parlare della memoria, diciamo, un po' più alta, chiamiamola così, perché oggi si ricordano i 65 anni dall'eccidio delle Fosse Ardeatine. Parliamo adesso però di una memoria un pochino minore, ma non per questo poco interessante. Sì, negli ultimi tempi in Italia si stanno creando molti archivi sulla memoria. Oggi vi parliamo di uno che è stato creato nel Lazio. Sentite un po'. I giorni di festa, le vacanze, il servizio militare, le vite quotidiane e i momenti speciali di generazioni di famiglie italiane attraverso fotografie e filmini. Il tutto in una mostra fino al 10 maggio al complesso del Vittoriano e nel portale Famiglia. Il portale nasce dal progetto triennale Famiglie Laziali, promosso dalla Presidenza della Regione Lazio. La raccolta del materiale è avvenuta tra il 2006 e il 2009, anche con la collaborazione degli studenti delle scuole delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Ho partecipato volentieri a questo progetto perché mi piacciono le foto vecchie, andare a rivedere i vecchi ricordi. E la foto che ho scelto è la foto di mia nonna, qui a 18 anni come io adesso, io mi piaceva vedere come era a 18 anni. Gabriele D'Autilia, responsabile del progetto Famiglia per l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. La fotografia familiare, nell'ambito della stessa fotografia professionale, dei grandi archivi, eccetera, in realtà è un genere a sé, è un genere un po' come un film carsico che corre negli archivi personali, privati, però non viene mai fuori. E questi materiali raccontano benissimo le storie sia del territorio della regione Lazio, su cui abbiamo lavorato, sia della stessa storia d'Italia, delle stesse famiglie italiane, di cui raccontano tutte le trasformazioni interne. Ormai la storiografia si occupa non soltanto dei grandi eventi, ma si occupa molto della storia sociale, quindi la fotografia familiare diventa un documento assolutamente fondamentale per questo. L'interesse sarebbe farne un grande progetto nazionale, raccontando quindi tutte le storie locali e quindi nel suo insieme tutta la storia della famiglia italiana. Questa foto ritrae mio nonno da bambino, circa 3 anni, infatti risale al 1936. E la cosa che mi ha colpito di più è vederlo un bambino piccolo, perché non avevo visto mai una sua foto dell'infanzia. Il portale è raggiungibile all'indirizzo www.fotofamilia.it. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. In Israele il nuovo esecutivo coprirà tutto l'arco costituzionale. C'è un accordo tra che comprende l'ultradestra di Lieberman e i laburisti e tiene fuori il partito di maggioranza relativa, Kadima. 3/4 delle esecuzioni capitali nel 2008 sono avvenute in Cina, denuncia Amnesty. Intanto il Sudafrica nega il visto al Dalai Lama fino al 2010. Il piano Geithner per gli asset tossici è piaciuto ieri ai mercati, ma le borse europee oggi hanno già virato in negativo. E sulla crisi Silvio Berlusconi dice: gli italiani lavorino di più. Non si ripetano gli errori del passato, dice il Presidente della Repubblica nell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Prima di di parlare del rapporto Amnesty 2008, rapporto sui diritti umani violati nel mondo, c'è un'ultima ora di cronaca, Simone. Sì, i calciatori Franco Brienza, Salvatore Aronica e Vincenzo Montalbano sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Palermo con l'accusa di frode sportiva per presunte combine durante il campionato 2002-2003, quando la squadra rosa-nero era in Serie B e lottava per l'A. L'indagine è un filone dell'inchiesta in corso a Palermo su presunti rapporti del Palermo Calcio con esponenti mafiosi nate dalle rivelazioni di Trapani, che è l'avvocato dei Lo Piccolo. E veniamo allora ora al rapporto di Amnesty International sui dati sulla pena di morte nel mondo. La buona notizia è che la maggior parte dei paesi al mondo si sta avvicinando all'abolizione della pena di morte. Quella cattiva è che centinaia di persone continuano ad essere condannate e giustiziate in una piccola parte del pianeta. La media è di 7 ogni giorno. È una fotografia più luminosa del passato, ma sempre dolorosa, quella scattata da Amnesty International nel rapporto sullo stato della pena di morte nel 2008. Se è vero che i 2/3 dei paesi del pianeta hanno abolito la pena di morte e solo 25 fra i 59 di quelli che ancora la mantengono hanno eseguito condanne nel 2008, è anche vero che il 93% di tutte le esecuzioni è avvenuto in 5 paesi. Primo paese boia è ancora la Cina, con 1.718 esecuzioni su un totale di 2.390 nel mondo. A seguire Iran, 346, Arabia Saudita, 102, Stati Uniti, 37 e Pakistan, 36. Nemmeno l'Europa risulta zona franca, visto che la Bielorussia, ultimo stato dell'ex blocco sovietico, ricorre ancora, seppur in grande segretezza, alla pena capitale. Stiamo facendo passi avanti verso un mondo libero dalla pena di morte, ci dice Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia. È un'emergenza ancora fortissima che richiede un impegno quotidiano da parte delle organizzazioni per i diritti umani, da parte della comunità internazionale, perché le risoluzioni dell'ONU, gli sforzi, la diplomazia sono fondamentali, ma ancora ci sono paesi che fanno resistenza verso questa tendenza che ormai è inarrestabile verso l'abolizione della pena capitale. Fino a qualche anno fa la domanda era se la pena di morte sarebbe stata abolita, oggi la domanda è quando, e questo già è un passo avanti. Io credo che siamo alla penultima curva di questo cammino, molto dipenderà anche dall'esempio che vorranno dare gli Stati Uniti, da cui arrivano novità importanti. Se gli Stati Uniti vogliono riprendere, come giusto che sia, il loro ruolo di paese guida nel campo dei diritti umani, devono avere una posizione più coraggiosa sulla pena di morte e in questo modo dare l'esempio a decine di altri paesi. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di diritti umani, il Dalai Lama non potrà entrare in Sudafrica sino al termine dei mondiali di calcio nel 2010, lo ha annunciato il governo sudafricano dopo che, su pressione della Cina, aveva negato il visto al capo spirituale tibetano per partecipare alla conferenza sul calcio come strumento contro il razzismo e la xenofobia prevista per venerdì 27 marzo a Johannesburg. Era prevista la partecipazione anche di altri premi Nobel per la pace, anche questi hanno deciso di non partecipare visto che al Dalai Lama è stato impedito l'ingresso e la conferenza è saltata. E intanto, a proposito sempre di diritti umani e di Cina, il celebre sito di video online YouTube è di nuovo inaccessibile ai visitatori cinesi. Dalla tarda sera di lunedì di ieri, quindi, la pagina iniziale non si apre oppure invia un messaggio di errore. Il governo cinese non ha spiegato le ragioni del blocco, ma si sa che la Marina americana aveva pubblicato appunto su questo sito i filmati sull'incidente che era avvenuto fra 8 pescherecci cinesi e una nave da guerra americana, incidente che era avvenuto nel mare del sud della Cina. Oggi è la giornata mondiale della lotta alla tubercolosi, una malattia, dice il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, che spegne una vita ogni 20 secondi. E oggi Medici Senza Frontiere ha lanciato la sua campagna. Sta facendo paura in Puglia, dopo la morte pochi giorni fa di una donna nigeriana nel centro di accoglienza di Bari. Ma mentre il prefetto ha chiarito che non ci sono rischi di epidemia, la tubercolosi mette in ginocchio paesi poveri. L'iniziativa di Medici Senza Frontiere, intitolata I nuovi volti di una vecchia malattia, in collaborazione con la Bocconi e la Commissione Diritti Umani del Senato, mira a risvegliare le coscienze in vista del G8 di luglio. Il direttore generale in Italia dell'organizzazione internazionale, Kostas Moskocoritis. Ad oggi, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè più precisamente nel 2006, abbiamo avuto 9 milioni di nuovi casi di tubercolosi in tutto il mondo, 1.700.000 persone morte a causa della tubercolosi, un terzo della popolazione mondiale è contagiata dal bacillo della tubercolosi, 2 miliardi di persone. La stragrande maggioranza di questi casi sono concentrati in 22 paesi, per di più paesi di medio e basso reddito. La richiesta è di puntare davvero su ricerca e diagnosi, soprattutto per curare le persone colpite sia da tubercolosi che da AIDS, anche perché intanto crescono sempre più i casi di malattia resistente ai farmaci. Marco Lignana, GR24, Sole 24 Ore. Giulia Crivelli, buongiorno, con te torniamo ai temi economici e soprattutto su un caso, sul caso AIG, insomma il caso dei bonus concessi ai manager, che però si sposta da questa parte dell'oceano. Sì, sembrava insomma destinato magari a sgonfiarsi in fretta, invece appunto non soltanto Obama e Geithner vanno per la loro strada, i giornali americani annunciano che 9 su 10 dei manager che hanno ricevuto questi mega bonus con ogni probabilità li restituiranno. No, quelli della AIG, anche insomma in mezzo a questo outrage popolare degli ultimi giorni, e intanto Liberation si scatena oggi. Il titolo di apertura è per un caso, diciamo, l'equivalente, un po' l'equivalente francese del caso AIG, e Thierry Morin, che è il numero uno di PDG, ha incassato 3,2 milioni di euro, e questa l'azienda che lui lascerà dopo aver incassato questo generoso bonus è in realtà un'azienda in crisi che sta anche per tagliare 1.600 posti di lavoro. Secondo Liberation si tratta di un caso indecente, una parola che abbiamo sentito anche per i bonus della AIG. Adesso vediamo se Sarkozy sarà altrettanto duro come è stato Obama e cercherà appunto di fare pressioni perché i bonus vengano restituiti. E sempre a proposito di crisi, Giulia, che cosa ci scrive oggi il Times? Oggi appunto purtroppo rischiamo di essere monotoni, ma i segnali sono questi da un po' da ogni parte del mondo. Sappiamo che uno dei segnali, cioè una delle evolversi, una delle direzioni in cui si può evolvere una crisi è la deflazione, cioè che è il contrario dell'inflazione, quando i prezzi cominciano a scendere o comunque non salgono più, è quello che sta succedendo guardando i parametri degli stipendi pubblici in Gran Bretagna, e tant'è che un milione di impiegati pubblici nella sanità pubblica, che come in tutti i paesi sono uno dei settori con più dipendenti pubblici, non riceveranno un aumento di stipendio, questo perché gli indicatori economici indicano sostanzialmente che dell'aumento di stipendio non c'è bisogno perché i prezzi non sono saliti tanto da giustificarlo. La concorrenza indiana, Giulia, non solo nel settore del cinema, ma a quanto pare inaspettatamente anche nel mondo della moda. Sì, da oggi a dopodomani c'è a New Delhi questo grande luxury summit organizzato anche dall'International Herald Tribune, e così Susie Mankets giustamente fa un ampio reportage appunto dall'India e spiega che sono tantissime le scuole di design, di moda in India, un po' come sappiamo le facoltà di informatica che sfornano ingegneri informatici che poi magari vengono a lavorare in Occidente o venivano prima della crisi, e così insomma queste università sfornano creativi, forse anche abituati ad arrangiarsi con meno. Questi creativi poi, se non trovano lavoro nelle grandi aziende, comunque presentano delle loro collezioni, hanno soltanto bisogno, scrive Susie Mankets, di una piccola platea, di un piccolo palcoscenico come può essere questo summit internazionale, per farsi conoscere e forse appunto diventare i giovani stilisti anche dell'Occidente di domani. Giulia, rapidamente, non vogliamo essere monotoni, ma insomma alla fine finiamo per parlare sempre di crisi o di cose collaterali. Una tassa sul lusso anche nel calcio, chi lo scrive? Sì, Financial Times in prima pagina, sulla parte alta della pagina ci sono Geithner e Obama, e nella parte bassa della pagina c'è questa possibile tassa che l'UEFA avrebbe proposto, perché visto che i grandi calciatori sembrano assolutamente non toccati dalla crisi, continuano a ricevere degli stipendi miliardari, multimiliardari in qualsiasi valuta li si calcoli, ebbene forse, scrive Financial Times citando fonti della UEFA, è ora di fargli pagare una tassa appunto sul lusso. Più ricchi di loro non ce n'è, anche Obama l'ha proposto più volte, tassiamo i super ricchi, beh, i calciatori sono sicuramente tra questi e quindi forse andrebbero super tassati. Spunti di riflessione, grazie anche per oggi Giulia Crivelli per averci accompagnato con questa panoramica. Domanda, i libri possono dare la felicità? Beh, sembra proprio di sì, almeno per quanto riguarda la felicità e i rapporti fra genitori e figli, secondo quanto dice un'indagine di Astra Ricerche. Intervistando 800 genitori di ragazzi al di sotto dei 15 anni, si è scoperto che la metà dei genitori si dichiara infelice per i rapporti che hanno con i figli. Ma le cose cambiano se in famiglia si legge, come spiega il sociologo Enrico Finzi, curatore della ricerca. Quando il genitore ha perso ogni controllo sul bambino o sul ragazzino, maschio o femmina, e non riesce più ad esercitare il suo ruolo di genitore, oppure quando ha le idee confuse, oppure quando in famiglia come collante c'è solo la cultura del consumo, quello che così normalmente chiamiamo consumismo, i libri non hanno un ruolo. Quando i genitori sono interessati alla maturazione dei loro figli, anche alla maturazione critica, anche all'opposizione, e quando si divertono con i figli, e la lettura deve essere innanzitutto un piacere, ecco che il libro gioca un ruolo importante, con un'avvertenza: contrapporre, come fanno troppi genitori e troppi insegnanti, il libro alle nuove tecnologie è una sciocchezza. I dati mostrano che chi va sul web legge più libri, e viceversa chi legge molti libri usa anche internet, la rete delle reti, e questo vale anche per il cellulare, non vale solo per l'iPod e la PlayStation, probabilmente perché in quel caso, come dire, c'è una fruizione passiva che non è coerente con il libro. Ma contrapporre tecnologia a libri vuol dire uccidere non la tecnologia ma i libri. Questo è il GR Extra Large, un rapido riepilogo delle notizie, Simone. Sì, abbiamo parlato oggi del futuro governo israeliano, che potrebbe comprendere tanto i laburisti quanto l'ultradestra. Abbiamo sentito il racconto del primo viaggio in 3 ore da Milano a Roma in treno, e sul convoglio c'era anche il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che dice: contro la crisi gli italiani lavorino di più. Vi abbiamo raccontato del primo giorno di votazioni sul testamento biologico al Senato. Abbiamo poi parlato dei diritti umani. Secondo Amnesty International, 3/4 delle esecuzioni capitali viene commesso in Cina, mentre arriva la notizia che al Dalai Lama sarà impedito l'ingresso in Sudafrica fino al 2010. A Roma oggi la commemorazione per i 65 anni dall'eccidio delle Fosse Ardiatine. Il presidente Napolitano ha visitato i luoghi della strage, mentre quello della Camera Fini ha partecipato ad una cerimonia appunto a Montecitorio. Lo spirito è quello di una riflessione sulla storia e sulle sue lezioni, che sono sempre attuali e non possono dimenticarsi. Imparare quello che ci dicono le generazioni che ci hanno preceduto, imparare quello che ci ha insegnato la storia, stare attenti a non ripetere gli errori del passato. Torna così a sottolineare il valore della memoria il presidente della Repubblica Napolitano, parlando ad un gruppo di giovani al termine della cerimonia per i 65 anni dall'eccidio delle Fosse Ardiatine, uno dei capitoli più spietati della persecuzione antiebraica, ma anche una pagina significativa della dura resistenza contro l'occupazione nazista a Roma in Italia, ricorda il capo dello Stato. Una pagina di cui ha parlato anche il presidente della Camera Fini, ricordando a Montecitorio la figura di Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, uno dei militari che combatterono contro i nazisti e che fu fra le 335 vittime delle Fosse Ardeatine. A questi uomini che vollero vivere da cittadini liberi in un paese libero, credo che debba andare sempre la gratitudine di tutti gli italiani. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. È ripreso oggi l'esame degli emendamenti al disegno di legge delega sul federalismo fiscale. Questa mattina il governo ha fatto inserire una norma per alleggerire gli affitti, di fatto un'apertura all'aliquota unica che l'opposizione ha contestato perché si tratta di una materia troppo complessa perché sia trattata così. Il ministro Calderoli, a questo punto, per non far saltare il dialogo, ha fatto ritirare questo emendamento. Ma se dunque su questo fronte il confronto sembra aperto, infatti, come dicevamo, Calderoli ha ritirato questo provvedimento, non lo è certo sul piano edilizia. Un piano che il leader del PD, Dario Franceschini, giudica incostituzionale. E allora sentiamo la risposta del ministro agli affari regionali, Raffaele Fitto, che è stato ospitato questa mattina da Giuliano Ferrara. Parliamo con l'elefante. Valuto come una indicazione politica preconcetta il fatto di stabilire e di indicare già un rilievo di incostituzionalità, perché non si può dichiarare la incostituzionalità sullo strumento, cioè il decreto legge, anziché il disegno di legge. Lo si può individuare all'interno del contenuto dello stesso. Il governo non ha varato un testo e lo ha portato successivamente all'attenzione delle regioni. Il governo ha scelto una strada diversa. Abbiamo aperto questo GR Extra Large parlando di Israele. Bene, chiudiamo restando in Medio Oriente, parlando di un attentato, dell'attentato di ieri in Libano, nel quale è stato ucciso il numero 2 dell'OLP nel paese. Sentiamo cosa dicono i giornali arabi oggi in edicola. Come sempre la parola da Deep Fateh Ali. Una faida tra palestinesi per sabotare il processo di riconciliazioni oppure una strategia della tensione in vista delle imminenti elezioni del 7 giugno e non un omicidio voluto da Israele. È quanto emerge dai commenti della stampa libanese sull'attentato che ieri ha ucciso il numero 2 dell'OLP e 3 suoi collaboratori. Giornali di opposto schieramento come il Filo Occidentale al-Nahar e il prosiriano al-Safir la pensano allo stesso modo. L'alta professionalità degli attentatori, il delicato ruolo della vittima impegnata a riconciliare la miriade di fazioni palestinesi in Libano, aggiunto al timing coinciso con una conferenza ministeriale araba tenuta a Beirut sul terrorismo, sono gli indizi che confermerebbero l'ipotesi avanzata dai due quotidiani. Adif Fateh Ali, GR 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Maria Piera Ceci e con in regia Fabio Cantadori. Il prossimo giornale radio è alle 15, GR Extra Large torna domani alle 13. Se volete scriverci, extralarge@radio24.it, e se volete riascoltarci, www.radio24.it. A domani. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.